Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti, vi do il buongiorno se ci ascoltate alle 6.45 o la buona serata se siete lì ad ascoltarci in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Oggi parleremo di una cosa molto molto interessante e devo dire da alcuni anni di attualità. E per introdurre l'argomento sentite un po' qui. Per entrare nel mondo dello spettacolo, per successo. Con i soldi cosa ci vorresti fare? La bella vita, okay. Belle macchine. Ho voglia di sfidare la mia timidezza, perché sono timido, un ragazzo molto timido, voglio provare. E che cosa ci vuole per essere adatto secondo te? Bisogna essere uguale a me. Grande Fratello, perché sinceramente il bottino niente male. Come mai Grande Fratello? Mi piace divertirmi e voglio stare in mezzo a gente nuova. Questo sogno, come ho scritto, è per mettermi alla prova, per conoscere nuove persone, per fare qualcosa di diverso. Perché prendere te al Grande Fratello? Perché secondo me c'è bisogno di una ragazza come me. Che caratteristiche ci vogliono per entrare nella casa? Essere pazzi? Bene, quello che avete ascoltato era il frame di un casting effettuato per l'ultima edizione del Grande Fratello. Non ho alcuna difficoltà a dire quello che penso di questi casting e di questi spettacoli, ma forse ci arrivate anche da soli a capire quello che penso della povertà di questi programmi. Allora, al di là della povertà, ultimamente la Guardia di Finanza e il Garante per la Privacy hanno fatto un'operazione molto molto molto intelligente, secondo me. Cioè, insieme sono andati a vedere che cosa accade in questi casting, perché chi li effettua ovviamente raccoglie dati, li diffonde online, li chiede e magari li rigira ad altri. Il tentativo di cercare attori, modelli, persone che siano disponibili ad entrare nella casa del Grande Fratello piuttosto che in altri reality, insomma, circolano in rete. Questo potrebbe non essere sempre corretto, così come girano in rete i curricula, girano le registrazioni. E per capire che cosa ha fatto la Guardia di Finanza, il nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, e per capire che cosa ha fatto il Garante per la Privacy, io ho il piacere di avere il comandante del nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, il colonnello Marco Alidori. Buongiorno Alidori. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E ho collegato anche il capo Dipartimento delle Attività Ispettive e Sanzioni del Garante per la Privacy, dottor Francesco Modafferi. Buongiorno Modafferi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci dica lei, colonnello Alidori, che cosa hanno fatto i suoi militari delle unità speciali per capire qualcosa di più presso queste società che fanno casting. Bene, intanto premetto che il nucleo speciale ha competenza nazionale ed opera in collaborazione con il Garante in forza di uno specifico protocollo d'intesa. Quindi noi solitamente eseguiamo indagini conoscitive, possiamo essere incaricati di indagini conoscitive, di acquisire informazioni sul posto presso le imprese, e solitamente lo facciamo anche a livello preventivo per monitorare un settore o per acquisire in generale un quadro d'insieme che possa permettere poi una valutazione complessiva di un settore. Nel caso specifico, quindi, si è partiti da un'attività per così dire ordinaria, cioè quello che facciamo solitamente. Si va a vedere la titolarità dei dati, si va a vedere le modalità e le finalità di questa raccolta, i tempi di conservazione e tutta una serie di adempimenti previsti dal codice privacy, quale ad esempio molto importante è l'acquisizione e il rilascio del previsto consenso al trattamento di una certa tipologia di dati. Ecco, e cosa avete scoperto, colonnello? Per arrivare al casting noi abbiamo eseguito una serie di controlli così ad ampio raggio, con le finalità di monitoraggio sulle imprese che operano nel settore. Quindi essenzialmente ha due tipologie diverse di imprese: le agenzie di spettacolo e le case di produzione. E mentre le prime gestiscono direttamente le attività di casting, le case di produzione occasione per i loro eventi, cosiddetti eventi, si appoggiano alle prime, alle case, alle agenzie di spettacolo e solitamente non richiedono i curricula. Questi, se gli arrivano, vengono gestiti in un certo modo, solitamente non c'è un interesse a gestirli in propria in prima persona e sostanzialmente vengono distrutti, ecco, non vengono conservati. Diverso è il discorso delle agenzie di spettacolo che si attivano per singoli eventi, come ad esempio nel caso del Grande Fratello, oppure vengono d'iniziativa interessate dagli aspiranti artisti che li propongono e li mandano quindi direttamente, o si recano di persona, certo, o li mandano via email, o li scrivono, li spediscono per posta. Ecco, Colonnello, queste 14 società di casting che voi avete, come dire, monitorato, come si sono comportate? Non abbiamo riscontrato irregolarità da contestare immediatamente, cioè non ci sono state palesi violazioni della normativa privacy. Certo sono comunque emersi, noi abbiamo fatto una fotografia del sistema, del settore, e quindi ci potrebbero essere dei comportamenti da valutare successivamente. Certo, ecco, a questo punto io chiedo a Modafferi, congratulandomi ancora per la scelta, ebbene, può spiegarcela perché avete deciso di andare a vedere nel mondo dello spettacolo eventuali pecche nella conservazione e nell'acquisizione dei dati sensibili? Sì, diciamo che questa attività nasce dalla volontà del garante di fare un'attività di controllo che sia il più possibile di carattere preventivo, quindi non intervenire necessariamente quando si verifica qualcosa già di conclamato, ma possibilmente anticipare e verificare se vi possono essere situazioni che devono essere ricondotte, diciamo, a normalità. È chiaro che, proprio come lei ha descritto benissimo all'inizio della trasmissione, il successo di questa attività di casting, la passione che queste attività riscuotono nei giovani, anche l'entusiasmo che gli stessi hanno nel partecipare a queste iniziative, porta l'autorità a guardare con particolare attenzione a questi fenomeni, in quanto proprio questo entusiasmo potrebbe tradursi a danno degli stessi interessati, che in quanto vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo potrebbero essere indotti più facilmente di persone più mature a concedere, a dare i propri dati con troppa leggerezza. Ecco, quindi... dottor Modafferi, io le faccio questo tipo di domanda e ammetto di essere nel torto, mi spiego. Quando per esempio vado in banca o vado alle poste o a che fare con un servizio pubblico che propina un questionario per dare o non dare l'autorizzazione o il consenso del trattamento dei dati, devo ammettere che la sfinitezza e la stanchezza mi prendono ancora prima di dover leggere quei fogli che sono incomprensibili, lunghissimi, eccetera, eccetera. Quindi ammetto di firmare, dare il consenso molte volte proprio per sfinitezza. Non c'è il rischio che questi ragazzi, adesso io non voglio anticipare ovviamente le indagini che voi state conducendo, ma non c'è il rischio che questi ragazzi, che sono disposti a tutto, e quando dico a tutto vuol dire proprio a tutto, pur di entrare nel mondo dello spettacolo, proprio del trattamento dei dati non gliene freghi, mi scusi la volgarità del termine, ormai di moda però nel lessico italiano, di questi dati proprio non gli interessi assolutamente nulla, firmano, via, tanto poi il loro scopo è entrare in una casa piuttosto che in uno sgabuzzino, un garage o magari una bella stanza arredata, e quindi poi alla fine il trattamento dei dati sia l'ultimo dei loro pensieri. Cosa ne pensa? Sono troppo negativo io nel pensiero oppure qualche fondamento c'è? No, penso che quello che lei ha fatto è una descrizione realistica di quello che, sarei pronto a scommetterci avviene certamente nel 99% dei casi. lo dicevo, anche le stesse testimonianze raccolte dai ragazzi all'inizio della trasmissione parlavano proprio di questo impeto quasi, di voler vincere la propria timidezza, di voler superare ogni ostacolo, di voler entrare nella casa del Grande Fratello, che direi che poi quasi per antonomasia è quanto di più lontano dal concetto di privacy. Proprio direi quasi fisicamente. Sì, sì, mi hanno informato del fatto che le telecamere credo siano entrate anche nei bagni o comunque insomma ormai sono dappertutto. Io non capisco come possa piacere un programma del genere, ma evidentemente sono io che sono limitato, no, per carità. Diciamo che a fronte di pochissimi che entrano, ora noi abbiamo preso ad esempio la casa del Grande Fratello, ma certo, chiaramente non era questo l'oggetto. Assolutamente no, certo. Attività. Però è sicuramente il più evidente caso di questo genere, e quindi a fronte di pochi ragazzi che riescono ad entrare in quella casa e che del tutto volontariamente si sottopongono ogni tipo di tortura, a questo tipo di tortura rispetto alla quale comunque probabilmente ne riceveranno anche dei benefici. Assolutamente, in termini di assolutamente notizia. Sì. Certo, ecco. Nella vita chi si accontenta gode. Allora, sì, dottor Modaffe, io la ringrazio immensamente del suo intervento, così come ringrazio il colonnello Marco Alidori. Benvengano questo tipo di iniziative, ancora una volta complimenti. Se ci saranno sviluppi, noi saremo qui a raccontarli. Ovviamente queste, così come altre iniziative congiunte delle Fiamme Gialle, così come vengono affettuosamente chiamate, del Garante per la Privacy, dico grazie in regia Valeria Bernardi e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.